Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo pronti nella lettura dei giornali. Oggi avremo ospite due ex direttori, Giuliano Ferrara che è stato direttore del Foglio, Bruno Manfellotto che è stato direttore dell'Espresso. Parleremo di Roma, ma delle grane del governo, sicuramente anche un po' di immigrati. Parleremo di questo, insomma, dalle 8:15. Ora state con noi perché leggiamo appunto i quotidiani che trovate in edicola. Come di consueto, i giornali in questo lunedì 15 giugno, giorno in cui si apre la 111esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Vediamo un po' se ce la facciamo questa settimana. Allora, il Sole 24 Ore apre sulla riforma del condominio, i nodi di deleghe e spese. Questa è l'apertura dell'edizione del lunedì. Poi la questione ballottaggi è l'apertura del Corriere della Sera. Sicuramente Venezia è la città più importante dove si è votato. Vince il centrodestra con Luigi Brugnaro. Il PD perde anche Venezia. Questo è il titolo del Corriere della Sera. I democratici sconfitti anche ad Arezzo e Matera, vincono a Mantova e Lecco. Per Repubblica, PD nuova frenata, perduta Venezia, Renzi una sconfitta. Poi la vicenda immigrazione. La Stampa, migranti, scontro con Parigi, si lavora a un piano rimpatri. Per Il Messaggero, profughi, contromossa italiana. Il Secolo XIX, la Francia respinge l'Italia. Mentre Il Fatto Quotidiano, edizione del lunedì, ha in prima pagina la foto di un migrante. Siamo uomini e ci usate per fare soldi. Tutto lo sfruttamento economico dal momento in cui partono dalle loro case fino all'arrivo in Europa. Il giornale legato all'immigrazione, questo è il titolo, le conseguenze dell'immigrazione. In Italia 2000 spose bambine, sono le giovani che ogni anno vengono forzate a matrimoni islamici, questa è l'inchiesta del giornale. Partiamo però, a proposito di immigrati, dalla vicenda ormai scomparsa dalle cronache dei giornali di Abdelmajid Twil, ve lo ricordate? 25 giorni fa arrestato in pompa magna perché accusato di essere uno degli attentatori del Bardo a Tunisi. Oggi La Stampa con Paolo Colonnello racconta che parte del destino di Twil verrà deciso oggi dai giudici. Pagina 12 della Stampa, in cella per l'attacco al Bardo, oggi i giudici decidono il suo futuro. È la quinta corte d'appello che oggi deciderà se concedergli un ritorno a casa in attesa delle carte da Tunisi. Oggi sono esattamente 25 giorni che il 22enne Abdelmajid Twil si trova in carcere con l'accusa di aver partecipato il 18 marzo scorso al massacro terroristico al Bardo, in cui persero la vita 24 persone, tra queste 4 italiani. Nonostante la gravità delle accuse, scrive La Stampa, dalle autorità tunisine che ne avevano chiesto l'arresto finora tutto tace. Posto che i nostri inquirenti hanno accertato senza ombra di dubbio che il giorno dell'attacco al Bardo Twil fosse in Italia, rimane però da capire il suo ruolo nell'attentato. Finora, ragiona l'avvocato fiorentino, disponiamo di un mandato di cattura estremamente lontano dai nostri standard accusatori. Twil è descritto dalle autorità tunisine come un componente logistico del gruppo terroristico legato all'ISIS e si sarebbe cioè occupato di trasportare le armi dalla Libia a Tunisi servite per la strage. Una circostanza che nell'unico interrogatorio di identificazione cui è stato sottoposto Twil ha smentito in lacrime, sostenendo di essere completamente estraneo a questa vicenda. E oggi, ripeto, scrive La Stampa, se lasciarlo in un reparto di massima sicurezza del carcere di Opera oppure se concedergli il ritorno a casa agli arresti domiciliari in attesa delle carte da Tunisi, ci sarà la decisione oggi della quinta corte d'appello, la stessa competente per un'estradizione che rimane allo Stato un'ipotesi di scuola, visto che in Tunisia vige formalmente la pena di morte e dunque rischierebbe questo, l'Italia non dovrebbe in questi casi concedere mai l'estradizione. Stiamo a vedere, ma a proposito di immigrazione, mi colpisce invece la notizia che c'è a pagina 19 sul Corriere della Sera. Spesso si dice in Libia non si può fare granché, non si può fare molto in Libia per intervenire. per intervenire. Sapete che la Libia è uno stato allo sfascio e quindi da lì partono molti dei migranti che ci ritroviamo poi sulle nostre coste. Ebbene, chi l'ha detto che in Libia non si può intervenire, soprattutto gli Stati Uniti, quando evidentemente conviene? Raid aereo statunitense in Libia contro un leader di Al-Qaeda. Guido Limpio, pagina 19. La Libia come arena per le operazioni speciali americane. Aerei statunitensi hanno condotto un raid nella notte di sabato nella zona di Ashdabia, colpendo un edificio dove era in corso una riunione di estremisti e, secondo fonti libiche, sarebbe stato ucciso nell'attacco Mokhtar Belmokhtar, detto l'intoccabile, ma detto anche il guercio, detto anche Marlboro, esponente di primo piano qaedista. Washington per ora è prudente, dice: sono in corso valutazioni dell'intelligence. Il governo di Tobruk ha annunciato la morte di Belmokhtar. Altre indiscrezioni hanno invece ipotizzato che il target sia stato il vertice della formazione Ansar al-Sharia, sempre di terroristi. Ebbene, chi l'ha detto che in Libia non si possono fare delle operazioni? Quando si vogliono fare, come vedete, si fanno. Voglio concentrarmi sui conti dell'INPS senza attirarmi ovviamente i soliti strali di pensionati che mi accusano di aver detto cose che non ho detto, a parte una battutaccia. Ma guardate i conti dell'INPS che mi fanno sempre dire: cari giovani, giovani, morite in fretta, giovani, veloci a morire, che tanto la pensione non ci sarà. E come al solito, se avete fatto figli, peggio per voi, dovevate pensarci prima. I conti dell'INPS. Enrico Marro, pagina 14 del Corriere della Sera. Bisognerà che l'economia davvero riprenda a crescere se vogliamo che il bilancio dell'INPS non peggiori di anno in anno, scaricando i suoi deficit sui conti dello Stato. Deficit crescenti che asciugheranno l'attuale attivo patrimoniale, attualmente inattivo di 18,5 miliardi nel 2014, l'INPS 18,5 miliardi, trasformando rapidamente tutto ciò in un passivo che secondo le previsioni salirà a 56 miliardi e mezzo nel 2023, da più 18,4 miliardi al rischio di meno 56,5 miliardi di euro nel 2023. No, però va bene, non tocchiamo, non facciamo niente all'INPS, non facciamo niente alle pensioni, non si possono toccare le pensioni e quindi bisogna avere una reazione di quelle così un po' giovani, morite, perché così ci togliamo il problema per il futuro. Questo ci porta, tra l'altro, io spesso ho detto, si potrebbe ricalcolare tutti col retributivo, no? Come tutti andranno ora in pensione, anche quelli andati in pensione col contributivo. Ah, no! Lo ha detto anche Cottarelli su 7, in un'intervista a 7. Il titolo era: smettiamola di dire che i pensionati hanno già dato molto. L'ha detto Cottarelli, non lo dice un pirla come Alessandro Milan. L'ha detto Cottarelli, Cottarelli, mani di forbice era soprannominato. Comunque questo ci porta all'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante, quello che ci fa più incazzare di questa giornata. È l'articolo di Gian Antonio Stella, pagina 15 del Corriere della Sera. Il pensionato d'oro da record, assegno mensile di 91.000 euro. 91.000 euro, lordi, per carità, lordi. E pensate, scrive Stella, almeno 54.000 euro in più al mese. 54.000 in più. Ecco quanto riceverebbe Mauro Sentinelli, il recordman delle pensioni, rispetto a ciò che versò di contributi. Versò contributi, ottiene 54.000 euro in più al mese. Per capirci, è l'equivalente di 107 pensioni minime, 107. Invece dei 91.473 lordi mensili, ne avrebbe 37.000 lordi, più che sufficienti, pagate le tasse, a vivere piuttosto bene. Chiariamo subito: l'ex direttore generale di TIM, in pensione da 10 anni dopo una vita passata tutto quasi in azienda telefonica, non è un ladro. È, scrive Stella, questo sì, uno scassinatore di conti pubblici, ma ha solo approfittato fino in fondo delle leggi che c'erano. Immaginiamo pure che viva come un'ingiustizia l'essere sempre tirato in ballo lui, il recordman, mentre un velo finisce per coprire tanti altri che incassano pensioni magari un po' più basse ma altrettanto astronomiche e squilibrate. Basti pensare ai vitalizi parlamentari. Ma stando ai dati INPS, lo sfacciato sbilanciamento tra sistema retributivo e contributivo emerge nel caso del dirigente telefonico in modo abbagliante. Il pensionato d'oro da record, assegno mensile di 91.000 euro, pari a 107 pensioni minime con il retributivo, ma va bene così, va bene così. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Fujitsu World Tour, 23 giugno Milano, partecipa anche tu. Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Questo è uno dei migliori, in assoluto uno dei migliori. Allora, si è votato ieri in alcuni comuni, si vota anche in alcuni comuni oggi in Sicilia, il risultato che più fa scalpore dal punto di vista giornalistico sui giornali certamente è la vittoria a Venezia di Luigi Brugnaro, candidato del centrodestra, dunque il centrodestra che conquista il comune di Venezia. Come scrive pagina 2 il Corriere della Sera, è un vero ribaltone. Il candidato del centro-sinistra, il senatore dissenziente del PD ed ex PM Felice Cassone, è stato battuto al ballottaggio dall'imprenditore Luigi Brugnaro, che intorno alla mezzanotte si è presentato davanti alle telecamere forte del 53,2%. Si aspettava l'esito della battaglia di Venezia, gli occhi erano tutti puntati sull'affluenza, ai ballottaggi la partecipazione da sempre è in caduta libera, così è andata anche in questa mini tornata elettorale. C'è da dire che la sinistra perde anche Arezzo, e fanno notare molti che è il comune del ministro Maria Elena Boschi. È la seconda volta che vince un candidato di centrodestra nella storia di Arezzo. Il centrosinistra invece vince a Lecco, come a Mantova e in altri comuni. Però chiaramente la vittoria del centrodestra con Brugnaro, che dice io non consumerò vendette, questo è il titolo di pagina 3 del Corriere della Sera, e dice anche a parole buone per Renzi, a me piace, darò anche una mano a Zaia, ma anche dall'altra parte una al Premier. Dall'altra parte il centro-sinistra si lecca un po' le ferite con l'intervista di Lorenzo Guerini, che è il vicepresidente del Partito Democratico, intervistato da Repubblica, e dice pesano le inchieste ma il voto in Laguna è una sconfitta bruciante. Stanotte non brindiamo, brucia la sconfitta di Venezia come brucia la sconfitta d'Arezzo, anche a Fermo, Matera e Nuoro. Sapevamo che era difficile anche per come si era conclusa la precedente esperienza amministrativa con Orsoni, ma abbiamo giocato la partita fino in fondo. Non darei comunque un significato politico a questa vittoria del centrodestra. Nel riepilogo complessivo dei comuni, il centrosinistra governa più amministrazioni del passato. In ogni caso, però, la sconfitta è la parola che viene attribuita anche a Matteo Renzi. Pagina 2 del quotidiano Repubblica, retroscena di Francesco Bei. Questo voto conferma quel che cerco di spiegare da un po' di tempo ai miei amici del PD. Il centrodestra non è affatto morto, anzi, è un avversario temibile quando si unisce. Renzi ammette, è una sconfitta. Questo è il titolo di pagina 2 di Repubblica. In retroscena, appunto, dice questo. Tra l'altro Orsoni, cioè il sindaco precedente, caduto per la vicenda del Mose, si è dovuto dimettere, attende ora il processo per finanziamento illecito nell'ambito della vicenda del Mose, viene intervistato dal Corriere della Sera. Da Andrea Pasqualetto, pagina 6. Professor Orsoni è andato a votare? Sì, ma senza scapicollarmi. Sono rientrato con calma a Venezia. Alla fine ho detto, vabbè, facciamolo. E ci dice anche per chi. Mi appello alla segretezza del voto. Dice della vittoria di Brugnaro, senza dubbio un passaggio epocale. La città che si è sempre vantata di essere governata dalla sinistra si trova di fronte a questa novità assoluta. Io non la vivo come uno smacco, anzi penso che l'alternanza sia l'essenza della democrazia. Dunque un Orsoni non proprio dispiaciuto. Che problemi avrà il nuovo sindaco? Due su tutti, il reperimento di risorse per la città e l'impotenza, nel senso che il primo cittadino qui non ha abbastanza potere per gestire i due livelli su cui si muove la città, quello locale del rapporto con i cittadini e quello internazionale con le istituzioni mondiali. Ci sono scelte riservate ad altri centri. La fatica del sindaco di Venezia è quella di governare questi rapporti a tre o a quattro, dove la sua voce non è determinante, anche se poi ci mette la faccia. Dica la verità, ha votato Brugnaro sindaco? O meglio, professor Orsoni? No, no, no, non ho detto questo. Ma aiuterà il nuovo sindaco? Se mi chiederà qualche consiglio, glielo darò. Dunque tornerà a far politica? Mai più. Così si conclude l'intervista all'ex sindaco di Venezia Orsoni. In tutto questo, la notizia politica che fa più discutere è ancora certamente la gestione dell'immigrazione. Le tensioni ci sono soprattutto con la Francia, soprattutto per la situazione a Ventimiglia, dove ci sono dei migranti che vogliono attraversare il confine, la Francia li respinge, c'è la polemica, ci sono alcuni titoli di giornali come l'apertura di prima pagina del Giorno che mette questa foto di migranti sugli scogli a Ventimiglia e il titolo è Fraternité, ironizzando ovviamente sui vicini, i nostri vicini della Francia. C'è da dire che la Francia fa sapere che il trattato di Schengen, quello che stabilisce la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, non è mai stato sospeso. Ed è vero, cioè non è mai stato sospeso, dicono dalla Francia. Quindi chiunque voglia passare, avendone diritto, lo può fare. E su questo avendone diritto, il trattato di Schengen si riferisce ovviamente ai cittadini dell'Unione Europea. Uno che viene dall'Eritrea non è un cittadino europeo, quindi non ha diritto ad appellarsi al trattato di Schengen. La Francia dice invece, in base a degli accordi italo-francesi di trattato di Chambéry, possiamo respingere degli immigrati che non sono regolari alla frontiera. Dunque il trattato di Schengen, la Francia dice, non c'entra nulla. Ma ieri sul Corriere della Sera Renzi ha fatto un'intervista nella quale ha detto: se l'Europa non ci ascolta, abbiamo pronto un piano B. Lì c'è da dire che la domanda successiva doveva essere: ah, piano B, ce lo spieghi. In realtà sul Corriere della Sera non c'è scritto nulla ieri di questo piano B. E allora oggi tutti a interrogarsi su che diavolo possa essere questo piano B in mente di Matteo Renzi. Il Corriere della Sera dice così: permessi a tempo e stretta sulle navi. Cosa prevede il piano B di Renzi? Prevede questo, Fiorenza Sarzanini, pagina 13, permessi temporanei a richiedenti asilo per consentire loro di varcare la frontiera e circolare liberamente in Europa. Avvio di una trattativa con alcuni stati dell'Unione Europea per fare un'operazione di polizia contro gli scafisti in Libia, provando a coinvolgere anche l'Egitto. Obbligo per le navi straniere che soccorrono i migranti in acqua internazionale di trasferirli nei propri paesi, vietando l'attracco dei nostri porti. Verrebbe da dire: perché non ci hanno pensato prima? Cioè, perché quando hanno fatto l'accordo in Europa non hanno detto, per esempio, alle navi, le navi britanniche che intervengono oggi e li portano qui da noi, a dire portateli in Gran Bretagna. E Cameron ha detto: noi non ne vogliamo neanche uno, quindi se interveniamo li portiamo al porto più vicino in Italia. Adesso il piano B prevede anche questo tipo di accordo. Piano B sugli sbarchi, ma non gli crede più nessuno. Questo è il titolo invece molto critico del Giornale. A pagina 3 Fabrizio De Feo: addirittura secondo Repubblica il piano B di Renzi, che prevede queste cose, prevederebbe però una carta in più molto dura. Pagina 9 di Repubblica raccontano che se potesse farlo, Renzi una soluzione l'avrebbe già sotto mano per rispondere all'eventuale rigetto del piano Juncker sui rifugiati: sospendere il pagamento delle quote italiane all'Unione Europea, verso la quale siamo creditori netti per circa 6 miliardi. Ma tolta dal tavolo questa arma atomica impossibile da usare, nella testa del Premier sta frullando un'altra idea forte da portare al Consiglio Europeo. Visto che i grandi, in testa Francia e Germania, si nascondono dietro il veto dei paesi dell'est al piano per la redistribuzione dei richiedenti asilo, Renzi sarebbe pronto a sparigliare le carte appellandosi ai fondatori dell'Unione per derogare al regolamento Dublino 2, quello appunto che obbliga il rifugiato a rimanere nello Stato dove ha presentato la prima domanda di asilo. In sostanza sarebbe la proposta di un'Europa a due velocità per l'immigrazione. Quindi questo potrebbe fare anche, derogare a Dublino, oppure dare dei permessi temporanei ai migranti che sono in Italia, così possono andare in Francia. La Francia che, ripeto, scrive Repubblica, ribadisce: non abbiamo mai sospeso il trattato di Schengen. Può circolare chi ha diritto di farlo, chi ha diritto. Qui sta la chiave di tutto, ricordatevi. Certo, cresce la tensione con la Francia, questo è anche il titolo di pagina 12 del Corriere della Sera. La situazione è sicuramente difficile. Legato all'immigrazione, il giornale fa una inchiesta che trovate a pagina 11, 12 e 13. La Lega a questo dicendo: ecco gli effetti dell'immigrazione in Italia. In Italia ci sono ormai, secondo alcune stime, è Daniela Uva che fa questa inchiesta, 2000 nuove schiave. Sono le spose bambine nate e cresciute nel nostro paese, obbligate a sposarsi negli stati di origine nel nome dell'Islam. Promesse spose a 9 anni, le bimbe schiave dell'Islam. L'articolo, ripeto, l'inchiesta la trovate sul giornale. Ogni anno almeno 150 piccole vengono spedite nei paesi di origine e date in moglie a uomini anziani che conoscono talvolta nel giorno in cui sono obbligate a sposarsi. Un'inchiesta davvero inquietante che trovate sul giornale. Mentre invece, se siete abituati ad accedere alle riunioni di condominio e lo fate con nonchalance, senza neppure litigare un attimo, beh, il Sole 24 Ore fa per voi, vero Mauro Meazza? Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno caro Alessandro. Eh sì, perché oggi ci concentriamo su un particolare compleanno, quello della riforma del condominio. Non è martedì, però vorrei precisarlo, perché sai che noi di solito il martedì abbiamo la pagina di condominio, ma questa volta abbiamo voluto fare un'eccezione. Allora, parliamo della riforma del condominio e dei punti ancora irrisolti, perché ci sono ad esempio delle questioni non banali sui morosi, ad esempio, cioè coloro che si ostinano a pagare quote condominiali. La riforma prometteva parecchio, ma invece ha raccolto pochino. Ma ti spieghiamo perché oggi te lo spiegano molto bene Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati. E già che parliamo di immobili, tu sai che domani, questa è una settimana decisiva, perché domani, certo, come no. Domani, cosa succede domani? Dillo tu, vediamo se sei preparato. Ma io sapevo solo la settimana decisiva sulle province, altre settimane. Ma tanta pazienza però Alessandro. Allora, entro domani vanno pagate, ohimè, IMU e TASI. Ma certo, dai, 16 giugno, è dal primo giugno che diamo questa scadenza simpatica. Ecco, allora, guarda, per quelli un po' meno smemorati e distratti di te, ti ricordo che c'è anche un forum online con delle risposte da parte degli esperti e che oggi ancora su Sole 24 Ore, nella prima delle pagine di Norme e Tributi, parliamo anche della possibilità, in vero non per tutti, di compensare, cioè far valere un credito per pagare questo debito. Ti piace questa cosa qua? Ho un'altra cosa sul mattone importante da dirti, anzi due. Da domani, quindi domani si paga, domani ci sarà comunque la pagina del condominio e domani ci saranno anche due nuovi quotidiani verticali, cioè due prodotti dedicati appunto dal sistema Sole 24 Ore. Uno si chiama Quotidiano dell'Edilizia e del Territorio e l'altro si chiama, guarda, indovina un po', Quotidiano del Condominio. Quindi saranno visibili per una prima fase gratuitamente e ci sono tutte le informazioni su come seguirli proprio sul Sole 24 Ore di oggi. Ti vorrei poi segnalare una cosa importante. Sai che stanno completando il Jobs Act? Sì. Angelino, lo so che sei lì, che sei in agguato, però si chiama così. Puoi anche dire riforma del lavoro. Allora, oggi ci concentriamo sul passaggio abbastanza epocale che si prospetta per i collaboratori. Ti ricordi le COCOCO, questa brutta sigla? Ecco. Dobbiamo passare da questo tipo di contratti a un altro tipo di contratti. Come? E te lo spiegano Francesca Barbieri e Alessandro Rotaporta oggi su Il Sole 24 Ore. Tra l'altro c'è un passaggio delicato per aspetti appunto di possibile sanatoria. E infine, altro non ti vuol dire, ho già mandato su Twitter, so che tu sei un grande utente, la vignetta di Domenico Rosa proprio sul pagamento di domani. Ti prego di mostrarla ora agli ascoltatori, così mi agevoli. Molto bene, e c'è una bella pagina nella sezione di norme e tributi, oltre alle, naturalmente alle molte cose sull'esperto risponde ancora in materia di Jobs Act, dicevo, una bella pagina su norme e tributi per le coppie di fatto, tutele, diritti, garanzie, scritti per lo più, come sai, dalla giurisprudenza, dai giudici, non, ohimè, ancora dalle norme, dalla legge, perché quella ancora non ce l'abbiamo, anche se vedremo se ci sarà anche lì un piano B. E a questo punto, caro Alessandro, concludiamo come d'abitudine, traffico! Alessandro Milan, What else? Allora, due notizie brevi di politica. Antonella Rampino sulla Stampa racconta che oggi Lapo Pistelli, che è il vice ministro degli esteri, si dimetterà. Si dimette dal governo e lascia anche il Parlamento. A 51 anni si può cambiare vita, mi occuperò di business internazionale, diventerà vicepresidente senior all'ENI. Pistelli, politica, addio, ricomincio dall'ENI. Anche se anche l'ENI è abbastanza politica in alcuni casi. L'altra notizia è sempre sulla Stampa. Ugo Magri racconta che c'è un gran movimento in Senato, soprattutto sapete che in Senato non ci sono grandi voti di margine per la maggioranza, e allora è molto attivo, secondo Ugo Magri, Denis Verdini, abbandonato un po' al suo destino da Silvio Berlusconi, starebbe a sorpresa cercando di mettere insieme i fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle per portare un po' di voti in dotazione al presidente del Consiglio Renzi. Una sorta di patto del Nazareno rivisitato in salsa Palazzo Madama. Le ultime dicono che Verdini, per condurre in porto la missione, sta provando a giocare la carta grillina, pescare tra i senatori che ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Un paio di loro proprio in queste ore hanno deciso di passare con il gruppo di Gall. Va bene, due notizie politiche ci sono. Noi parleremo un po' di Mafia Capitale. Oggi viene presentata la relazione al prefetto Gabrielli, le 1000 pagine di analisi della commissione prefettizia che ha analizzato tutte le vicende delle carte all'interno dell'amministrazione comunale di Ignazio Marino, e presenterà oggi la relazione al prefetto Gabrielli. Il prefetto Gabrielli ha 45 giorni di tempo per analizzare in ogni dettaglio il lavoro svolto dai commissari, dopodiché presenterà le proprie conclusioni al Ministero dell'Interno. In queste conclusioni potrebbe anche dire bisogna sciogliere il comune per mafia, e questo è il timore. Giovanni Bianconi, Mafia Capitale, oggi fa 2 pagine sul Corriere della Sera, pagina 10-11, anticipando un po' gli scenari che potrebbero essere descritti in questa relazione che viene ora consegnata nelle mani del prefetto. E ne parleremo comunque alle 8.15, avremo Giuliano Ferrara e Bruno Manfellotto ai nostri microfoni. Se guardiamo agli orizzonti internazionali, sono giorni anche molto importanti di prefallimento degli accordi, qualcuno dice fallimento definitivo ormai del tentativo di accordo tra la Grecia e i creditori internazionali. Fallisce il negoziato, Atene all'ultima spiaggia, paura per i mercati. Oggi c'è molta attenzione su come apriranno le borse, perché, come racconta Valentina Conte a pagina 14 di Repubblica, ancora nessun accordo, doveva essere la volta buona, si torna invece a ballare. Anche se il premier greco Tsipras dice per natura sono ottimista, il ministro delle finanze tedesco Schäuble da Berlino risponde l'ombra dell'uscita della Grecia dall'euro è sempre più visibile. Ancora ieri un incontro, racconta sempre su Repubblica Ettore Livini, di 20 minuti, giusto per far capire che le posizioni tra la Grecia e i creditori erano diverse. Da una parte la Grecia dice non vogliamo toccare gli stipendi, le pensioni, non vogliamo alzare del 10% l'IVA sull'elettricità, e allora gli uomini dell'ex troica dicono di no, ci hanno spiegato di non avere il mandato per approvare modifiche alle loro posizioni. Incontro durato 20 minuti, ognuno si è alzato e il negoziato pare fallito. Il negoziato greco è fallito, questo titola anche la Stampa a pagina 7, divisi da 2 miliardi di tasse. Tra l'altro le accuse, come quella dell'economista Daniel Gross, economista tedesco che intervistato da Repubblica pagina 15 dice ora lo posso dire, è colpa dei greci. L'accusa è forte, il governo di Atene però non si è mai fatto carico delle proprie responsabilità. Varoufakis ha annunciato trionfante un surplus nei primi 5 mesi di quest'anno, ma questo surplus si raggiunge solo non pagando i fornitori e i conti greci sono oscuri, complicati, poco trasparenti, al punto che i veri numeri non li sanno neanche loro. Insomma, Daniel Gross dice qui la colpa è soprattutto di Atene. Due notizie per chiudere, una è questa, un festino hard per Ronaldo che risale al 1998, in realtà racconta Luigi Ferrarella sul Corriere, per sentenza del Tribunale di Milano non costerà all'ex fenomeno la perdita di uno sponsor. Succede che nel 98, anzi scusate nel 98, nel 2008, Ronaldo si era appartato con una ragazza per poi scoprire che era un transessuale, che poi si è fatto raggiungere da altri due transessuali, insomma è stato beccato con tre transessuali. E allora uno sponsor che lo aveva ingaggiato aveva ritirato i soldi dicendo ha leso l'immagine del nostro marchio e quindi vogliamo indietro i soldi della sponsorizzazione. Una sentenza del Tribunale di Milano ha sancito che Ronaldo è padrone della sua immagine, nonostante vada a fare un festino hard, come in questo caso, allaccia una relazione sentimentale non approvata dal pubblico, professa idee controcorrente, si converta a un credo religioso impopolare in un certo contesto storico e sociale, anche se fa questo, tutto ciò attiene alla sua vita privata. Quindi può andare anche a trans e a lei così. Sono la Carta Costa. Devo chiudere. L'articolo più inutile sui giornali oggi vince, stravince Guglia Soncini su Repubblica, pagina 31, tre quarti di pagina per le sette spose borghesi per sette principi. Ormai i principi sposano e portano all'altare ragazze senza nobiltà. Ma chi se ne frega?